che è un artista famosissimo. Tutti a Bologna lo conosciamo per il suo, non mi ricordo più che cosa ha fatto a Capodanno, però alla fine gliel'hanno bruciato come a tutti gli altri. Quindi un vecchione? Un vecchione, sì, esatto. Un vecchione. Forse lui aveva fatto la scimmia, sai che non mi ricordo. Beh, comunque, cioè, se qualcuno se lo ricorda, potete sempre messaggiarci o whatsapparci al 333 180 94 94. Comunque più di un motivo per andare in Trentino, quindi insomma. Assolutamente, sì. E brava Fedra, ci ha lasciato qua. Ti ha lasciato qua con te che sei me, giusto? Esatto, cioè, e io che sono Fedra. Cioè. Io eredito il W, tu erediti la Fedra. Fedra è per esteso. Fedra è per esteso. Sì. Ok. Sì, siamo messi così. E poi la cosa che è strana di Fedra è che non si sa mai, cioè delle volte lei si chiama Fedra Boscaro e altre volte si fa chiamare Boscaro, per cui così. Ah, quindi c'è anche una, diciamo, dei dubbi sul cognome, su questi accenti che lei può togliere, mettere, quando lo toglie dove lo mette? Non lo so, può darsi che lo metta nella nome. Di Pasquini. Ah, ok, chissà. Potrebbe finire lì. Potrebbe essere anche così. O Coxò. Beh, ogni tanto lo diciamo. Ah, ti ricordi che quella volta il nostro ospite Coxò e disse questa cosa? Ah, passato qua. Remoto di Coxare. Esattamente. Giustissimo. E mi dicono dalla regia che il tema della trasmissione oggi è l'eterna lotta. Ti risulta? Mi risulta sì, perché mi coinvolge, diciamo, direttamente. Direttamente, però come co-conduttore non volevo direttamente raccontare partire che cos'è da l'eterna, questa cosa. Ah, okay. L'eterna lotta. Mm-hmm. Qua in studio c'è Laura Ipasto, che è la persona che mi sembra di averla già vista. Tu hai sbaglio? Non lo so, adesso queste sono cose che magari dovete risolvere fra di voi, però. Vabbè. Già visto, un volto noto della radio. Un volto noto di Radio Città Fujiko, almeno le volte che vengo qua io, che non sono tante effettivamente. Tipo vabbè. Che questa è la mia terza puntata da gennaio del 2016, per cui... Beh, ma allora dopo festeggiamo in qualche modo a metà puntata. Esatto. No, niente, volevo dirti... Lasciando i microfoni accesi magari, come ho fatto la settimana scorsa. Che però potremmo lanciare una nuova moda di far radio, cioè perché tirare ma giù il microfono? Ma penso che qua a Radio Città Fujiko sia abbastanza di moda questa cosa, comunque. Allora diventa vintage, diventa tu dici. Vintage. No, ma perché abbiamo questo meraviglioso mix che aiuta molto, cioè si chiama Oxygen 26 e l'Oxygen secondo me se l'è già bevuto tutto. E il 26 è l'anno di fabbricazione. Molto probabilmente. Ok. Molto probabilmente. Vabbè, prima della crisi del 29, quando i componenti ancora si trovavano. Esatto. E no, niente, l'Eterna Lotta è un progetto che è prodotto anche da Laura Ipasto, soprattutto da Laura Ipasto. Proprio di tuo portafoglio. No, non esageriamo. E così ci spiega cos'è un produttore, che comunque nell'etica... Nell'etica dei poveracci come siamo noi è sempre utile sapere. E soprattutto di queste quattro puntate che chiudono oggi con indici W opponibili. Ah, cavoli, sul cinema. È vero. Sul cinema e su come si fa cinema oggi, o almeno a Bologna, con personaggi che sono passati. E soprattutto perché? E perché? Sono Maggiore, esatto. Sto ascoltando Coxo Spaziale. Ah, ecco. Ah, io volevo dire una cosa. Beh, cioè, innanzitutto ciao a tutti, perché questi neanche perché... mi fanno salutare. Esatto, ecco, no, cioè, ma infatti. Va bene. Benvenuta a Coxo grazie, Spaziale. Grazie mille. E poi volevo dire che in realtà abbiamo una telefonata da fare prima che io mi metta a parlare, a blatterare sulla produzione. Ah, chissà, dici che risponda. Subito? Secondo subito risponda. Così? Ma senza risponda. Neanche introdurre chi è, parlare un attimo. Beh, allora si può dire che è adorabile. Ah, è adorabile, e per cui posso sai cos'è che facciamo? Ascoltiamo una canzoncina adorabile prima di fare questa telefonata. È dal nuovo LP, infatti, perché io ce l'ho in vinile, di Jenny Owen Youngs, e si intitola, una canzone nuovissima, l'ha scritta lei tipo ieri, Ring of Fire. Non raccontiamo. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, down, down, and the flames they went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. Fire. Well, the taste of love is sweet when hearts like ours meet. I felt for you like a child, oh, but the fire went wild. Burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Ecco il tipo che sta finendo adesso. È finita. Dov'è il nostro... Pronto, pronto, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, però un po' nascosto. Ma... Sì. Dovevamo introdurlo? Io so come si chiama. Perché siamo già in diretta, ma l'unica cosa che possiamo fare in questo caso, visto che lui è già in linea, probabilmente mi sta sentendo, anche se ho silenziato il viva voce come una vecchia volpe. Esatto. Adesso metterò il viva voce e gli dirò: guarda, non ti abbiamo proprio neanche presentato, quindi ti presenti in modo e racconti dell'eterna lotta un po' e poi lo fermerò. Ah sì, perché poi quello che dico io lui non lo sente, perché sono di là dal vetro. Abbiamo tentato facciamo una prova Skype, ma facciamo una prova. Sentiamo se qua. Ci sei? Pronto. Oh, lo sentiamo? Secondo me devi girare. Ecco, così lo sentiamo molto meglio. Chi sei? Tu non puoi sentirci, ma noi ti sentiamo, Diego. E, Diego, intanto, sappiamo che Diego. È Diego, ma si presenterà adesso. No. Stavo facendo una cosa importante, mi hanno disturbato qua, proprio in diretta. Io non so, questo qua. Forse ho sbagliato, potrei aver sbagliato numero. Mi ricordo una voce conosciuta. Andrea Monsu, chi è? Brunetta, invece di dare sempre di sotto la scrivania, per cortesia, se mi chiama un ospite, introducimi come si conviene. Hai ragione, Diego, ma questa è stata un'idea anche del nostro ospite, che è Laura Epasto, la produttrice del cortometraggio di cui tu sarai protagonista. Ti premetto solo una cosa prima che tu mi interrompa: Coxo Spaziale, la trasmissione a cui sei su Radio Città Fujiko, è una trasmissione di arte contemporanea che ci ospita perché parliamo di cinema. È bellissimo! Ciao, come state? Tutto bene? Io non rispondo perché tanto no, io sto malissimo in realtà. Che facciamo? Non ho capito niente. Siamo proprio in diretta, un intervento. Ma lui dov'è? A Riccione? Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko, perché è una radio che io ascolto tutti i giorni, tutto il giorno peraltro. Da Torino, fra l'altro. Da Torino, quindi lunga vita a chi crede ancora nella radio. Io la radio la faccio da milioni di anni e ci credo perché è un mezzo fondamentale per diffondere musica, cultura e intrattenimento, e in questo caso anche cinema. Se poi il cinema è firmato Andrea Montu, allora va tutto bene. E poi c'è anche Lawson, bellissimo, troppo bello. Questo cortometraggio è un cortometraggio che farà parlare, farà raccontare, farà faville, ragazzi, perché l'eterna lotta tra l'uomo e la natura è un tema caldo, caldissimo, capito? È caldissimo. Non puoi non vedere questo cortometraggio e sentirti protagonista anche tu, insieme a quello lì che fa il protagonista, che non so chi è. E chi è poi? Ecco, ci chiedevamo appunto questo film di cui non abbiamo ancora detto nulla, pensa, perché siamo a inizio trasmissione ed era un po' una gag diversa, no? Cioè questo nuovo modo di far radio molto bello in cui si introduce un personaggio senza presentarlo, lui non lo sa, lui dice delle cose che non hanno alcun senso. Ma io parlo a Vanvera. No, ti fermo un secondo. Allora, siamo intanto collegati con Diego Casale, notissimo attore che ha fatto anche televisione, Zelig per chi ricorda il duo Mammut. E ho detto bene? Bene, benissimo. Perfetto, ha fatto anche un sacco di teatro, ha fatto la Melevisione, adesso non vi sto a citare tutte le cose belle che ha fatto e che... Anche la Luna su Torino ha fatto. Anche la Luna su Torino diretto da Davide Ferrario, è vero, scusami, ed è lì che ci siamo conosciuti ed è il motivo per cui... Esatto, adesso quello che possiamo fare secondo me è raccontare qualcosa in più del corto. Ma no, pensavo di farlo io, Diego. Facciamo che ti richiamo fra qualche minuto. E facciamo che nel frattempo io suono una canzone di artisti torinesi. Vai. Ce la faccio? Forse. Loro si chiamano Twi, questo è uscito sabato scorso, sono dei giovanissimi artisti torinesi, molto bravissimi, e questa si chiama, se non sbaglio, Clouds. The tree was high, the wind was strong. The way we can let these go wrong. I took your hand, you grabbed mine too. We look at each other, what are we gonna do? I was quite worried the time you said these adventures would take faith. But then you look into my eyes, and in the sky we were together fly. We overcome mountains and stones, but I am right here next to you. And this go fast, this love will last, and then everything seems so small, oh, oh, oh, oh, and beautiful. Take me to the clouds and beyond. Take me to the clouds. I want to be on this journey, I'm sure. I'm not afraid. Deep blue water dancing under us. We overcome mountains and stones, and I will always be right here for you. So beautiful. The clouds and beyond them, I won't leave this journey, I'm sure. I won't leave this journey, I'm sure. Gran pezzo, che dici? Mi piace, ancora collegati per qualche manciata di secondo con Diego Casale che ci voleva salutare, perché certo. Poi lui deve tornare a teatro oggi. Sei a teatro oggi? Assolutamente sì, sono a Torino, stiamo per andare in scena, pertanto per provare microfono e quant'altro per farlo sempre voi stasera. Quindi vi lascio in ottime mani, nelle mani del mio regista, mio regista, mi raccomando, convinciti, perché vabbè, come tu solo sai fare. Quello che posso dire è che tutte le professionalità coinvolte in questo cortometraggio sono entusiaste, ma veramente entusiaste, ma tutti. Per cui poi ci sono delle sorprese per il crowdfunding molto molto particolari, si sono unite altre professionalità, perciò c'è un gran movimento bello di bella gente, ma proprio di bella gente intorno a questo cortometraggio, questa sfida meravigliosa che tra l'uomo e la natura, poi ve lo dirà Andrea e saprà dirlo anche meglio di me. Io sono molto onorato di farne parte, sono molto felice che tutto ciò accada, quindi in bocca al lupo a questa radio fantastica, un abbraccio e a prestissimo a Bologna, perché non vedo l'ora di girare e di fare il primo shoot insieme ad Andrea e naturalmente a Laura e gli Indici Opponibili. Dopo tutta questa carica non so come andrò avanti nella puntata, però intanto ti ringrazio, Diego, grazie mille. Vai. Ma infatti ciao, devo un abbraccio, ragazzi. Ciao, a presto. Ciao. Devo dire che questi torinesi hanno un sacco di energia, cioè tra la musica, il cinema e... non so, infatti, chissà che cosa gli danno da bere. Forse è l'aria che arriva dalle Alpi. Beh, in realtà mi ha caricato di un'energia positiva. Stavo pensando anche che è molto più formale quando... Questa radio rende formali le persone, almeno quelle che ho invitato io. L'altra volta Miguel, che di solito Gatti del garage, lo salutiamo, che diciamo, è molto informale, era precisissimo. Era precisissimo, abbiamo fatto una delle trasmissioni più serie della storia di Coxo Spaziale. Guarda mia. Fortuna che ho tenuto sui microfoni, perché cioè per almeno un errore l'ho fatto. Chi è? Mi è arrivato un V alle 19:06. Un W. È così che deve essere. Cosa faccio? Segnalo spam, blocco, aggiungo ai contatti? No, va bene, grazie. Ain't got no boredom. Molto bene, non so chi sia, comunque vediamo i suoi messaggi vecchi. 333 180 94 94. E poi invece voi avete altro da raccontarci su questo cortometraggio di cui io non ho capito niente, a parte la parola crowdfunding. Ma non abbiamo capito niente neanche noi. Ah, ecco, ma assolutamente. Una cosa fondamentale è: ma è già stato fatto questo cortometraggio? Ma no, ma infatti oppure adesso è ancora da farsi. Qual è la cosa bella? La cosa bella è che, ovviamente, in questa nuova modalità di radio che avevamo pensato, no? In cui l'ospite non sa di essere ospite, gli telefoni non sa cosa. Se l'hai già introdotto o no, lui ha anticipato una serie di temi che, se non ci fosse qua Laura Epasto, la produttrice del cortometraggio L'Eterna Lotta, prodotto da Indici Opponibili e da Fargo Film di Torino, sarebbe impossibile scoprire qualcosa in più e chiarirci le cose che sono state dette da Diego Casale. Per cui Laura, dici tu un po' cos'è questo corto? Di cui però sarà meglio che io sveli il fatto che sono l'autore e regista, perché l'ha già anticipato Diego Casale. Allora qua è tutto un magna magna come al solito. C'è un po' un conflitto di interessi, però vai. Fedra l'aveva garantito, però si era fatta garante quella, che te dico. Ho capito. Parlo io? No. Parla al pianoforte. No, volevo darti un'introduzione un po' coxica, un po' come si dice. Spaventosi. Adesso puoi parlare. Ok. Che cosa devo dire? Vabbè, il cortometraggio è durerà poco. È un cortometraggio. È un cortometraggio. No, durerà in realtà tra i 10 e i 12 minuti. Questo dipenderà un po' da una serie di fattori. L'operazione in realtà è, insomma, abbastanza complessa, perché abbiamo messo insieme una serie di tecnici pazzeschi. Sono tutti giovani, ma sono tutti anche molto molto bravi e tutti pluripremiati, pensate, tranne me. Ok. quindi siamo. Ma fate tutto a Torino o lo fate? No, assolutamente. Noi gireremo quest'estate, intorno a metà luglio, tempo permettendo, visto che quest'anno il tempo è un po' ballerino. Un po' E questo svela il fatto che il corto non è stato fatto, il corto non è ancora stato fatto, il corto non è ancora stato fatto. Avete ancora bisogno di una comparsa. Oh, che bello. No, perché non c'è nessuno, è tutto qui girato. C'è un solo attore. Cavoli. Un corto sull'assenza. Esatto, assenza presenza di un altro attore che non sarà un attore. E questo è uno dei motivi per cui neanche noi abbiamo capito neanche del film. Perfetto. No, non è vero. Adesso Andrea magari vi racconta in due parole che cosa racconta il film. La cosa divertente dell'Eterna Lotta, poi divertente per me, spero che lo sia anche quando lo gireremo per tutti, è che però in questa fase di preproduzione, che cos'è la preproduzione? Il momento in cui si cerca di capire come si farà a girarlo questo cortometraggio, ed è una fase importante in cui si raccolgono le idee a progetto comunque già scritto, pronto sulla carta. Io non intendo raccontare un cortometraggio. Perché se brutto, ce lo racconti, no? Dopo non lo andiamo neanche a vedere. Esatto. Perché lo sappiamo già. Diciamo che quello che racconta verrà espresso con una forma. La forma è quello del cinema muto. Però è anche quello della comicità slapstick, tipo Tom e Jerry, per intenderci, per chi non mastica, ma i coxatori masticano tutti. Slapstick, certo. Cioè, per forza. Siamo dei masters. Però diciamo, se qualcuno si è collegato per sbaglio alla Tom e Jerry e a cartoni animati tipo Anna e Barbera, per intenderci anche. E quello che vorrei raccontare è un impasse, una sorta di. Pure il francese usiamo oggi. Sì, oggi va così. Veramente spaventoso. un impasse fra uomo e natura nella condivisione e nella gestione di uno spazio, una gestione di uno spazio che è sempre più difficile, che dovrebbe essere uno spazio naturale, perché anche l'uomo appartiene alla natura, ma se ne dimentica ogni tanto, ovviamente in forma commedia, e quindi non sacca. Io declino così il termine commedia, forse non è il modo migliore. Non sacca. Sì, cioè che non stanca, che non è, non appesantisce. Ho capito. Ho detto bene, Laura? Hai detto bene. Hai detto abbastanza bene da poter far partire la pubblicità delle 19:29 e 46 secondi di Radio Città Fujiko. Chissà. Assicurare il mantenimento delle spot elettorali in coalizione civica, l'utente responsabile. L'utilizzo di nuvolo in quantità elettrice abbondante. È arrivato Martelloni per una scuola pubblica efficiente di tutti. Vedrete, per rimarrete incantati. Moderne e affitti sostenibili per una città plurale e solidale. Ripara la città con coalizione civica. Abbiamo le idee e le forze per far tornare a vivere Bologna. Se il traffico ti stressa, se desideri una città che sappia prendersi cura dei propri cittadini, i due minuti di Nandi hanno una durata percepita variabile. La pasta è molto facile da cuocere, ma non ad esempio per i tedeschi o per gli irlandesi, che non ne hanno la minima idea. Noi d'altro canto abbiamo qualche difficoltà nel preparare bistecche di cervo con la marmellata, più che altro per un blocco psicologico. Tutto è relativo, d'altronde ci piace fare il cazzo che ci pare. In questo siamo simili agli irlandesi. I tedeschi vedono un po' loro, sono poi cazzi loro. Basta che non vengano a rompere i maroni a casa mia, altrimenti chiamo la pulizia. Ma guarda te se è possibile farsi un piatto di pasta senza che arrivi un tedesco a mettere il naso. È una situazione intollerabile. Ma torna da dove sei venuto e magnati al cervo. È un coacervo di situazioni intollerabili. Mi chiedo se se ne può ancora. Mi rispondo che non se ne può più. Fottuti nazisti. Luigi, 34 anni, celebre, mutilesente, fisicaccio, appassionato di perni monconi, cerca donna odontotecnica anche in fallimento per avviare relazione basata sul feticismo. Camilla, 31 anni, bionda, febbricitante, fragile, alto, basso, cerca lettore contatori, Max, 42enne, intenzionato ad aprire un negozio in franchising di cartucce inchiostro ricaricate sulle isole Aran. Scevro da ogni pregiudizio, ti desidero così come sei. Hai mai guardato una cacca di cane pensando alla vita brulicante di batteri che in essa si nasconde? Il miracolo della vita appartiene a me, a te, ai coguari e alle limule. Scrivimi un messaggio con il tuo sangue e ti risponderò con il mio mucco. Impiegato quarantenne, cerca donna anche sessantenne, anche vedova, anche sposata, anche uomo, per condividere una vita vuota e monotona. Scambio 177 punti COP con finestrino Prince. Scambio confezione Pongo come nuova con una scatola di tonno star all'erba cipollina. Scambio intera discografia di Mietta con numeri civici in metallo, eccetto il 3 ed il 7, di qualsiasi misura. Già finito? Cox spaziale. Spaventosissimissimo il nostro Riccardo Lolli. Io le sto scegliendo a casaccio perché queste sono, come si chiamano, repliche dei due minuti di Lolli, perché si è rotto il cazzo anche di farli. Che meraviglia però. Perché lui comunque ce ne sfornava almeno uno a settimana. Poi dopo non ho capito, io sono andato a Torino, Lolli non... Fedra non lo so, è andata a Trento e Lolli si è rotto. E così, come diceva nei suoi due minuti. Esatto, e dopodiché però io li sto prendendo a caso, tipo la settimana scorsa ho messo sul numero 28, questo di oggi era il numero 12 e sta andando benissimo, cosa dici? Beh sì, numero civico 3, 7, tanta roba comunque. Mi ha messo di buon umore. Questo mi fa molto piacere. E dunque ritorniamo velocissimissimissimissimissimi su. Non mi ricordo più. Io ogni tanto perdo il file. L'eterna lotta, che sarebbe quella tra me e il file che perdo. Esatto, è sempre un'eterna lotta comunque fra l'uomo e la tecnologia, ma soprattutto fra l'uomo e la natura. Fra l'uomo e la natura è il tema di cui parla questo cortometraggio, L'Eterna Lotta, che è una commedia muta, girata con l'estetica del cinema slapstick, e quindi girata però in modo molto cinematografico, tant'è che le professionalità coinvolte sono molto cinematografiche, a partire da Laura Epasto, che è qua con noi, che è il produttore, che ci racconta anche che cosa vuol dire produrre oggi un cortometraggio muto. Come? Muto. Vuol dire tanta fatica perché chiaramente soprattutto in Emilia Romagna, che è un po' un paradosso perché l'Emilia Romagna è sempre stata un po' una terra di cinema, no? Fellini, conosciamo tutti. Sì, cioè comunque di tanta creatività. Esatto, adesso ci sono insomma delle interessanti strade che si sono aperte da poco, di cui non vi parlerò perché sono cose noiose, però la fatica rimane, nel senso che, come posso dire, il cinema è una delle massime espressioni artistiche, ma ha un grossissimo problema, cioè che costa tanto. Così dicono. Costa tanto, per cui chiaramente diciamo il produttore ha del suo, quindi magari al papà ricco piuttosto che una zia che, da cui eredita delle cose, oppure deve trovare il denaro per fare il suo film in vari modi, a volte rocamboleschi, a volte no. Comunque. E quali sono i modi messi in campo per l'Eterna Lotta? Per l'Eterna Lotta, che è il primo cortometraggio che produce Indici Opponibili, ma lo fa a braccetto con Fargo Film, che ricordiamo essere una delle case di produzione più importanti del Piemonte, quindi certo. Comunque che gli dà un po' è quella di... famosa con l'animazione di Toccafondo in... No, quella invece è Fandango. Quella è Fandango. Che bella figuraccia, come vabbè, ma... del resto io comunque sono solo Stefano W. Pasquini e non uno Stefano migliore, ovvero il nostro caro amico speaker di Radio Città Fujiko di Paura in Palcoscenico, è lui l'esperto di film, appunto. È giusto, però migliore di nome di fatto. Possiamo dire che, volendo fare questa gag, Laura, che ha già lavorato tanto nel cinema, sì, anche il cinema diciamo quello di serie A, sì, A+, ha anche collaborato con Toccafondo su un progetto, per sì, dire che c'è un punto di contatto, dire. Non si può dire, abbiamo toccato il fondo della trasmissione raccontando che hai lavorato con Toccafondo, siamo spaventosi. No, abbiamo iniziato a sviluppare un progetto, io lavoravo prima per Tempesta, che è una casa di produzione abbastanza importante. Sembriamo dei supereroi, io lavoravo per Tempesta, esatto. E si era iniziato a sviluppare un progetto insieme, ma poi questo progetto non è stato realizzato, quindi. No, per dire che adesso approdi comunque alla produzione come, sì, produttore, sì, non solo come membro di una casa di produzione, sì, che insomma è andata a Cannes, ha preso il Grand Prix. Tempesta è una bella realtà dell'Emilia Romagna, assolutamente, sì, adesso con questa piccolissima Indici Opponibili, che come dire fa delle cose e ne fa anche delle altre, tra queste altre produce anche cortometraggi, documentari, sperando un giorno di arrivare al lungo, che è il grande sogno di tutti noi cinematografari. Wow. Come lo finanziamo questo film? Come lo finanziamo? Telefonate al vostro amico, l'uomo sabbia, gli fate rubare una... È un'idea. Fate scassinare l'Unicredit e via che si va, no? L'uomo sabbia? Magari sì, perché dopo Tempesta lui dice Tempesta è uno degli X-Men, vedi come segue, sì, poi la Marvel. La mia facoltà cinematografica finisce lì, cioè andando a vedere gli Avengers con i miei figli più o meno. Ecco, noi meno Avengers siamo costretti a chiedere l'aiuto a casa, come si fa nelle trasmissioni. Sì, esatto. Ah, che bello. Per cui noi questo corto come lo finanziamo? Un po' di soldini ce li mettiamo noi, un po' ce li metterà Fargo, un po' abbiamo un finanziatore torinese che salutiamo. Misterioso. Che si chiama? Urban Art. Ok. E che trovate chiaramente www.arturban.com, questa dovevamo dirla. Ok. E poi dopodiché abbiamo fatto domanda a questo fantomatico bando per il finanziamento della Regione Emilia Romagna, ma in tutto questo ci manca un pezzettino, e questo pezzettino vorremmo chiedere appunto l'aiuto a casa facendo un piccolo crowdfunding che partirà il 10 giugno sulla piattaforma Eppela. Per cui abbiamo il tempo di fare tutta la pubblicità possibile e immaginabile su Coxo Spaziale. Tranquillissimi, avete tutto il tempo che volete, mm-hmm, possiamo tornare, anche se probabilmente non ci vorrete più vedere. niente, praticamente c'è una bellissima pagina Facebook che si chiama L'Eterna Lotta, appunto, dove ci sono un po' di cosine e a breve ce ne saranno molte, molte altre. Abbastanza anche. E dunque divertente. Posso interromperti per mandare avanti la mia trasmissione, sì, la nostra trasmissione, con l'angolo della menzione. L'angolo della menzione. E, l'angolo della menzione. Nell'angolo della menzione, quello che facciamo è menzioniamo quello che succede. Per esempio, siamo già in ritardo, ovvero adiacenze alle 18.30 inaugurato, sono le 19.44. Penso che siano ancora lì, ma in vicolo Spirito Santo 1B c'è una nuova mostra di Petri Paselli chiamata Il Compianto. Lavorando da sempre sui temi quali il collezionismo e i ricordi dell'infanzia, da qualche anno i Petri Paselli hanno iniziato una ricerca che riguarda la fiaba di Biancaneve, prendendo in esame e sottolineandone proprio queste tematiche insieme a quelle della morte. E questo è ad adiacenze stasera, per cui se siete lì vicini andate, altrimenti cazzi vostri, e non trovo più lo stacco. Tocca a te, venerdì 27 maggio. Voilà, venerdì 27 maggio, ore 18. Altra Portal, Alessandro Azzoni, Luca Bernardello, Paolo Buffalini, Filippo Cecconi, Marco Ceroni, Diego Gualandris, Mati Giurri, Renk Ozer, Tabita Rezaer. Ma chi è ecco perché gente? Me l'hai fatto leggere. No, scusami, no, ma non l'ho fatta apposta. Se le porte della percezione fossero sgombrate, ogni cosa apparirebbe com'è, infinita. William Blake citato da Aldous Huxley. Portal si svolge contemporaneamente nei due spazi di Current Milano e Tripla Bologna. Durante la serata del 27 maggio si aprirà un portale tra le due realtà per permettere agli ospiti della mostra di abitare in contemporanea i due luoghi. Allo stesso tempo i due spazi espositivi si invadono e si contaminano vicendevolmente, tendendo a una condizione di ubiquità. Nei giorni seguenti, il 27 maggio, i due spazi saranno di nuovo separati, ognuno visitabile nella sua posizione geografica, ma in entrambi rimarranno visibili le opere che conserveranno i segni dello scambio. Hai capito. E non ti metto lo stacco perché volevo solo dire che la parte bolognese è Tripla in via Indipendenza 71F, e siccome tutti sanno dov'è via Indipendenza, direi che a questo punto posso anche fare così. Tocca di me di nuovo, siamo a sabato 28 maggio e a Fantomas, arte accessibile, io vi menziono proprio per questo, alle 18.30 in via Frassinago 3D, Pieces of Africa. Devo dire che voi altri potreste scrivere dei comunicati stampa un po' più, un po' meno concisi. Tutto quello che abbiamo è immagini di un'Africa vissuta e non semplicemente attraversata. E questo era Fantomas, no, non c'hanno, sì, fantomas.gimdo.com. Poi invece domenica 29 maggio, ore 17, Parata Partot, partenza da Piazza Verdi alle ore 17. E basta, cioè, esatto. Tutti sanno che cos'è la Parata Partot, per cui non abbiamo bisogno neanche di presentarla. Vogliamo ancora parlarne? Appunto. Oddio, si è sbagliato. E finito così perché di nuovo stiamo a riparlare di crowdfunding, ovvero quello che invece mi interessa a me personalmente. Tutti voi vi ricorderete Elia, forse sì, forse no, questo biondo con gli occhi azzurri che trovavate spesso ubriaco, spesso no, ma sempre molto allegro in via del Pratello, alle volte al Sesto Senso. Sta per terminare 20% per Elia, sta per terminare il tempo per contribuire ad essere produttori del libro su Elia Greggio, pittore scomparso nel 2005, per il quale amici di Bologna e di Adria hanno organizzato un crowdfunding. Se avete opere o ricordi suoi, mandateli per email a archivioelia@gmail.com. E torniamo a voi dunque. Beh, di crowdfunding in crowdfunding, dici? Esattamente. Qui diciamo che l'argomento è sempre l'eterna lotta, questo simpatico corto in potenza che non sarà un corto potente finché non verrà girato e che per essere girato ha bisogno di essere un po' aiutato in una parte del suo budget, e per questa parte del suo budget il produttore che è qua in studio, Laura Epasto, ha pensato di fare un crowdfunding su Eppela e chiedere il contributo a casa. E dunque niente, la questione qua si risolve chiedendo perché il crowdfunding è uno degli strumenti che si usano oggi e soprattutto quali sono le altre cose, per come si fa a mettere in campo gli altri strumenti, perché, e vorrei che essendo qua ci raccontassi, sono stati coinvolti su questo progetto delle professionalità elencabili e di sicura e nota fama, nel senso tutte persone molto molto molto capace, che hanno dimostrato di esserlo, e di fare cinema, non solo videomaking. Questa nota differenza. Sì. Allora, vabbè, perché vado in ordine? Perché il crowdfunding è importante. Sì. Vai in ordine, che poi ci penso io a distrarti, okay. Non ti preoccupare. Allora, il crowdfunding è importante perché le risorse comunque per qualsiasi tipo di produzione artistica, come confermerà il nostro W qui davanti, sono sempre più complesse da mettere insieme. È un gran casino. Mentre una volta comunque esistevano dei sostegni, come dire, belli corposi, adesso, come dire, un po' bisogna inventarsi i modi. Come direbbe il mio amico Marco Maggi, che saluto, è finita la fresca. Sì, è anche finita la pacchia, è finita la pilla, insomma quello che uno insomma preferisce. E quindi il crowdfunding è un modo anche per coinvolgere le persone che un po' ci sono intorno, un po' sono curiose, un po' sono degli stalker. Un po' sono degli stalker, certo, di quelli ne abbiamo, possiamo fare un elenco. Un po' vogliono anche i premi che sono collegati. Ah, certo. Sicuramente è vero. Vogliono anche, perché per noi premi. È facile, perché noi diamo, cioè tu ci dai 20 euro e noi ti diamo un libro che poi obiettivamente non dovrebbe costare poi tanto meno. Ma voi che cosa ci date in cambio? Ah, noi abbiamo un sacco di cose. Ah, sì? Noi abbiamo un sacco di cose. Tipo allora, un ovino Kinder con dentro niente USB. L'MP4. Anzitutto uno dei nostri partner, che è Art Urban, che fa delle magliette bellissime, sia stampate sia dipinte a mano. Addirittura. Ok. Quindi, ha fatto una linea di prodotti dedicata. E questo già una linea intera. Assolutamente. Vabbè, una linea intera, non è che parliamo di 800 modelli, chiaramente, però insomma è una cosa bella, anche perché loro sono molto bravi, hanno un bellissimo laboratorio. Purtroppo sono a Torino, e vabbè, però per fortuna per noi, purtroppo per i bolognesi. Quindi loro, poi dopodiché ci saranno delle altre cose interessanti che adesso non vi svelo, perché saranno, le troverete sulla pagina Facebook dell'Eternalotta tra poco. Che troverete su www.coxospaziale.blogspot.com. Anche. E poi dopodiché il mostro finale, quindi il premione finale, sarà un bellissimo workshop che terranno qui presente Andrea Montuschi e lì presente Diego Casale. Sulla scrittura e interpretazione comica. Wow. E io lo imparo adesso. Pensa che cosa eccezionale. In premium workshop. Beh, sì. Mi piace. Sì, certo, perché il verbo va comunque diffuso e va comunque alimentato. Ma sì, ma io sono Danilo De Summa e sto ascoltando Coxo Spaziale. Che non c'entra niente. Sono un po' di brividi. No, però brividi. Effettivamente aveva una voce abbastanza spaventosa, per cui. Ho capito, ma che bello comunque vincere un workshop, perché di solito no, si vincono degli oggetti. Sì, degli oggetti. E invece questo impegno spazio-temporale, cioè devo dire che potrebbe essere molto interessante. Sì, ci piaceva perché, vabbè, da un lato chiaramente, cioè, il film parla dell'eterna lotta con la natura. Noi vogliamo essere il meno invadenti possibili appunto nei confronti della natura, per cui il sito sarà ospitato su un hosting sostenibile a emissioni zero, per cui vorremmo evitare il più possibile di spedire cose. Certo, non è molto naturale usare... Ci sembrava un modo per tenere insieme entrambe le cose, e poi anche comunque una cosa divertente e interessante, perché andare a cena con lui o comunque trovarsi nella stessa stanza con lui e con Diego, lo dico io che sono una persona noiosissima, serissima, è divertentissimo. Questo mi mette solo imbarazzo, però al di là di quello, la cosa che mi sembra divertente a questo punto è dire, poi dobbiamo elencare come si fa a fare un cortometraggio cinematografico, cioè qual è il salto che ho chiesto io per ora, perché una volta era semplice, bastava anziché filmarlo con la videocamera bastava filmarlo con la cinepresa. Esatto. Ma adesso non è più così. No. Quindi oggi per chi è collegato con Coxo Spaziale e dice ma oggi il cinema si fa col digitale, il digitale costa molto poco, è tutto è accessibile, è facile fare film, si sentono queste cose che leggi in rete, no? Film che è uscito al cinema è fatto con $8,000. Non dovete proprio credere, amici, ascoltate, scherzo, non dovete crederci, perché è impossibile anche solo di audio fare le cose fatte in modo serio, perché tu possa godere di un cortometraggio, figuriamoci di un lungometraggio, richiede... Ma scusa, non era muto il vostro? Un sacco di interventi, ma infatti muto, ma dicevamo c'è una sonorizzazione molto importante, che è anche il muto Muto Muto, Zigaverto. Muto Muto sarebbe muto. No, è un corto internazionale senza audio, quindi senza dialogo, diciamo, ma certo, con un audio importante, con delle professionalità che permettono di fare appunto il salto fra cinema videomaking e cinema. Perché sono tutti ragazzi che lavorano già nel cinema. Esatto, adesso faccio un elenchino giusto per capirci. Abbiamo alla fotografia Dario Di Mella, che è sempre in cinquina ai David di Donatello, sì, con i suoi, con la fotografia di almeno 2 o 3 cortometraggi. Ma volevate lo stacco? Grazie. Ci sta, eh. Sì, che lui è meraviglioso, giovanissimo, bravissimo, super professionale, ma anche divertente. Questo non è un aspetto da sottovalutare. No, sul perché set. Siamo sostenibili anche per quanto riguarda il nervoso. Diciamo. Esatto. Quindi si crea un bell'ambiente disteso. Poi abbiamo come compositore delle musiche Adriano Ponte. Due volte vincitore Los Angeles Awards a 22 anni. E 23. Esatto. Così è andata. Wow. Poi abbiamo come truccatrice la notissima Francesca Piani, che tutti i bolognesi conoscono. Poi almeno avremo quelli che fanno cinema. Beh sì. Avremo poi come costumista Benedetta Benfenati, anche lei bolognese. Mm-hmm. Poi avremo come sound designer Vito Martinelli. Mi avete preso di... Sì, sound designer di Davide Ferrario e Gaglianone, fra gli altri, insomma. Serie A più. E beh, poi ci siamo noi. Va bene, poi ci siamo noi che ci sminuiamo, però vogliamo anche ringraziare, visto che sono qua anche in veste, diciamo, di regista, autore, avrei voluto intervistarti di più, però Ladis Zanini, che è il mitico produttore di Fargo Film, casa di produzione del Piemonte, molto nota. Metto sui Catatonia. Fedra continua a non risponderci. Cosa facciamo? Ascoltiamo il suono del telefono che suona libero. È molto tempo con la musica, questo tutù. Non è male. Adesso il cellulare ha deciso che basta. Ho capito. E dunque questa è stata la 144esima puntata di Coxo Spaziale. I nostri indici opponibili ci stanno per salutare. Come faremo? Devo dire che è stata un'esperienza divertente. Molto, molto, molto, molto, molto, molto divertente. Molto umana. Molto umana. Perché? diciamolo, quando una cosa è umana. Molto umana. Molto umana. Coxissima. Abbiamo detto tutto sul vostro. Ma forse l'abbiamo detto confusamente. E quindi, per confondere ancora di più le idee, vorrei solo dire da, diciamo, persona che ha scritto il cortometraggio e che ambisce di girarlo, perché qua se non ci date una mano non gireremo mai. Quello che secondo me è molto divertente mettere in scena è questa idea di confine fra uomo e natura, un impasse, una barriera difficile da oltrepassare, un confine invisibile, ecco, che separano uomo e natura come se fossero due cose separate quando di per sé non possono esserlo. E così, con queste parole filosofeggianti, vi lasciamo appunto a uno Stefano Migliore. Ma prima di questo, prima di salutarvi, volevo farvi sentire un altro pezzo di questa band meravigliosa polacca chiamata Krem, di cui sto facendo un sacco di pubblicità, e così il pezzo si chiama Pilot. E dunque ringraziamo Andrea e Laura. Scusa, mi ero dimenticato. Ringraziamoci. Io ringraziamo. No, e soprattutto ringraziamo Indici Opponibili per essere stati i W di questo mese. Non sappiamo ancora che cosa succederà la settimana prossima, quando saremo già in giugno, e per cui chissà cosa ci preparerà Fedra. Io intanto ti ringrazio per il W. No, spero di averlo portato. L'hai portato meglio di me, come sempre. Cioè, io alla fine mi sento veramente un W abbastanza miserevole, quando appunto la mia bandiera viene portata meglio da quasi tutti quelli che fanno radio come dei professionisti. Un giorno spero di darti la O di Indici Opponibili. Wow, ne sarò lusingatissimo. Saluti da Coxo Spaziale. Ciao. Ciebie szukam i nie mogę znaleźć. Na kanapie już nie leżysz, na pawlaczu ciebie nie ma. Odnajdę cię, tak, i będziesz tu, nie tam, i będziesz mój. Mieć.